www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi. E mentre nella fabbrica di polli non mancano mai le crudeltà gratuite, Cappa e Drago sono rimasti gli unici esseri viventi non marroni nella fabbrica. Vedi Cappa, quello che io non approvo proprio mai è l'unanimismo. Non sai neanche pronunciarlo, per forza non approvi. Unanimismo, non una bomber, unanimismo, da non confondersi con l'umanismo, che è un'altra cosa. E neanche con l'umanesimo, che è un'altra cosa. Perché adesso tutti qui, ma proprio tutti, mercenari belgi compresi, si sono tinti di marrone. Questa cosa mi fa venire la pelle d'oca, anzi la pelle di pollo, che poi è uguale. La marronizzazione dell'Occidente è un tema da affrontare molto seriamente. E allora affrontiamolo. Qualunque punto di vista tu lo voglia vedere, il marrone è comunque un colore fondamentale per l'uomo, quindi... Ma perché? Cioè, già partiamo da una roba che non capisco. Perché la terra, Drago, il terriccio, intendo, quello che ci sarebbe se non ci fosse l'asfalto, è marrone, no? Indiscutibilmente e innegabilmente marrone. Vero. Allora partiamo da lì. Il verde dell'erba, il blu del cielo e il marrone della terra. Sì, beh, allora il bianco della neve. E il giallo del grano. E allora tutti i colori sono importanti. Ma il marrone di più. Ma perché? Perché le feci sono marroni e Freud e quella roba lì, insomma, le feci. Le feci. Oh, se pensi alle feci, Drago, capisci tutto. Allora si finisce sempre a parlare di quello, no? Uno parte dall'alto, poi arriva a parlare di... Se vuoi parliamo, non so, di cioccolato, va bene? Allora, il cioccolato e il cacao sono sostanze quasi stupefacenti, perché hanno una tradizione antichissima, lo sai, no? Sì. Forse antica quanto l'uomo. Sì. Il cioccolato è marrone. Va bene, sì. Anche Dio probabilmente è marrone. Ah, eh sì, dato che ha fatto l'uomo a sua immagine e l'uomo l'ha fatto dalla creta... Ma non andiamo sempre a scomodare i piani alti. Vabbè, ma la marronizzazione dell'Occidente è solo un fenomeno di ritorno alla pura essenza dell'uomo. Hai capito? Quello di essere fatto di terra. Certo. Non è terra eravate, terra tornerete, insomma, più o meno così. Forse era polvere, eravate, ma io poi non sono Harry De Luca, quindi non faccio testo. Ma non ho capito, ho detto solo Harry De Luca. Se ti fa questo effetto, non dirlo, no? Sì, allora, ma la marronizzazione dell'Occidente è una cosa. La marronizzazione della fabbrica è un'altra. E qui il ritorno alle radici non c'entra niente. Se fossimo nell'85, andrebbero di moda le galline sbiancate, le gothic chicken. Invece adesso siamo nel 2007 e va di moda il marrone. Vedono troppa pubblicità. Ma i meccanismi della fabbrica e quelli dell'Occidente sono gli stessi. Le dinamiche sono le stesse, Drago. Per parafrasare una pera, noi ci siamo meticciati. Una pera? Sì. Anche le pere possono discutere di storia contemporanea, non lo sapete. Qui l'ottimismo non paga. E io credo che abbiano fatto bene a richiamare al realismo il presidente Reagan prima e l'attuale presidente Bush, quando hanno parlato di assi del male o di stati canaglia. Perché vedete, amici, se ci sono questi assi del male e questi stati canaglia, non è colpevole dirlo, non è ineducato ammetterlo, è colpevole tacerlo, è pericoloso tacerlo. Hai capito, Drago? È tutta una congiura dell'asse del male, siamo circondati dai nemici e i nemici sono marroni. Prepariamoci, perché sta arrivando in tutta l'Europa l'incubo de... La carneficina colonialista! E vado a todos! Indias malditas! Quiera aquí! Está con brazos de agua con fuego! Fato mal! La fabbrica di polli. Io non saprei che dire se adesso fosse giorno, e non saprei partire perché non c'è ritorno, e non saprei chi sono se si vedesse il viso. Penseresti male vedendo il mio sorriso. La notte ci nasconde e meno male. Cela le mancanze dentro queste stanze. La notte ci nasconde e ci fa male. Prendere le distanze tra noi due. Il colore marrone non è distinto dall'arancione, è semplicemente un arancione meno luminoso. La composizione spettrale di un arancione e di un marrone può benissimo essere la stessa, ed entrambi questi colori possono avere sia uno spettro monocromatico, sia con più di una componente. In entrambi i casi, se diminuiamo la sola intensità della o delle componenti, non variando quindi né la saturazione né la tinta, l'arancione diventa marrone. Nell'arcobaleno il marrone non c'è, perché non possiamo regolare l'intensità della luce solare che lo genera. Il marrone è quindi un falso colore. Diffidate di chi ha la pelle o le piume marroni. Brown Power! Allora, viviamo in un mondo che ci ostile, dove siamo la minoranza schiacciata dalla maggioranza bianca, oppressa dal potere invisibile giudaico-cristiano. Ma stai zitto! Allora, l'unica risposta può essere la guerriglia urbana, no? Sì. Brown Power! Ma dai, Brown Power! Ma quale minoranza e quale Brown Power? Ma guardati intorno, Pollo! Ormai siete tutti marroni. Qui la campagna pubblicitaria dei produttori di tintura ha funzionato perfettamente e adesso vi ha resi tutti uguali. Sì, lo so, ma se sei marrone non puoi fare a meno di ragionare come un marrone, no? I marroni si sentono sempre in minoranza. Forse si sentono in inferiorità, che è diverso. Inferiorità? Sì, Tarek, tu sei inferiore, ma tu non fai mica testo, no? E poi, Pollo, non dimentichiamolo, tu non sei marrone. Come non sono marrone? Ma guardatemi, no? Di che colore sono, scusa? Arancione, direi. Arancione? Ma che arancione? Arancione sono i polli induisti o i buddisti. Adesso non so neanche come si chiamano, ma voi li conoscete? I polli Hare Krishna. Sì, quelli lì, no? Quelli che si rifiutano di mangiare i lombrichi, no? Vabbè, sono vegetariani. Vedono un lombrico e lo lasciano andare. Ma voi ci credete? Io no. Secondo me, davanti a voi fanno così. Poi quando nessuno li vede, zac, Ma cazzo zac? Sì, una beccata e il lombrico non c'è più, Comunque, Polo, non illuderti, perché tu sei bianco e sei tinto di marrone. E il marrone, oltretutto, è l'arancione, visto da un altro punto di vista. Quindi la tua identità è andata in pappa, mi dispiace per te. L'identità marrone è la mia unica identità, E come la mettiamo con l'arancione, scusa? Non lo so. Guarda che devi fare anche i conti con l'arancione, In effetti certi riflessi che mandi con le tue piume, guarda, Kappa, sono proprio arancioni, vedi? Ma adesso cos'è sta storia dell'arancione? Pollo, anche tu adesso sei un pollo Hare Krishna. E non posso più mangiare i lombrichi? No, in teoria. Allora vado in sbattimento. Che cosa succederà adesso? La crisi di identità del pollo in sbattimento verrà vissuta in massa dall'intera popolazione tinta della fabbrica? Brown Power! E i polli Hare Krishna faranno la loro pacifica entrata in scena? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo orientaleggiante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Ah, ma perché la carne di lombrico, tra l'altro, sfama, perché essendo proteine, nutriente. E sazia. Sazia a lungo, perché ci metti un po' a digerirla e quindi per le diete è ottimo. È ideale, no? Per lui. Anche con un po' di terriccio sopra, perché da quelle, a qualcuno fa schifo, ma quelli sono quelli che non sanno mangiare.